di cui è stato oggetto il vignettista Vauro Senesi mi ricorda la richiesta di censurare i giornali danesi per aver pubblicato delle vignette considerate offensive nei confronti della religione musulmana. L'allontanamento del vignettista dalla trasmissione Anno Zero è per me inqualificabile e inaccettabile, e dovrebbe esserlo per tutti in una democrazia. Se la motivazione dell'allontanamento di Vauro dalla trasmissione Anno Zero starebbe nel mancato rispetto della pietas per i morti del terremoto abruzzese, vi dico da abruzzese che non mi sento offeso, ma che considero la vignetta incriminata una amara denuncia dell'inciviltà di questo paese, dove si parla di ronde ma non si è mai fatta abbastanza per mettere in sicurezza il territorio. Non ritengo, infine, che la tragedia del terremoto debba mettere il silenziatore alle critiche pungenti di chi parla del presente e del futuro dei vivi, che siano abruzzesi oppure no.